decisamente affermate le radio in un'altra frequenza. Non c'è più il monopolio della RAI e anche le televisioni hanno cominciato ad aprire gli spazi importanti alla musica, sono le prime televisioni tematiche, video music, e quindi anche la RAI si accoda e anche Mediaset aprendo un po' delle trasmissioni dove la musica entra. Enzo, non so se stai ballando il twist, ma non è il caso della prossima canzone, che invece è un tormentone del 2001 recente, anche questa è entrata, ha fatto grande successo, di Valeria Rossi, poi le stesse è scomparsa. C'è solo una cura, io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi, sei tuo guaritore. Se nel tuo mondo dammi tre parole, sole, cuore, amore. E su questi pochi secondi che ci rimangono in questa canzone, in questa puntata speciale di Tormentoni Estivi, un saluto velocissimo. Giuseppe Antonelli, dimmi proprio pochi secondi su questa canzone, vero Tormentone, anche lei alla fine? Lei è quella che riassume tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Tutto il resto della canzone è dimenticabile e dimenticato perché è quasi un nonsense. Sono parole e frasi che non si mettono insieme e quindi fanno in modo che emerga solo quel ritornello che ci ricorderemo forse ancora a lungo e che riassume un po' il senso di tutti i testi di cui ci siamo occupati in questa trasmissione estiva. Ecco, ce ne siamo occupati, diciamo, secondo me comunque a livello alto alla fine, nel contenuto, al di là di quello che abbiamo detto noi, perché Pasolini nel lontano 1964 scrisse niente di meglio delle canzonette al potere magico, abiettamente poetico di revocare un tempo perduto. Che ne pensi Enzo Gentile in due secondi, mentre lui dice, lo stesso Pasolini dice, chi può raccontare meglio il dopoguerra del Boogie Woogie oppure l'estate del 63 meglio di quel che possa fare la stessa spiaggia, stesso mare? Ha avuto ragione su tante cose Pasolini, anche in questo caso possiamo sottoscriverlo. D'altronde aggiungerei una canzone, un tormentone dell'estate, per avere effettivamente questa definizione deve superare qualche decennio, deve avere una traiettoria lunga. Abbiamo adesso l'esempio ovviamente di Edoardo Vianello, vediamo se le ultime che abbiamo ascoltato nel 2030 o il 2040, quando farai ancora queste trasmissioni, noi saremo ancora ci ritroveremo lì a parlarne e vedremo se le ricorderemo. Edoardo Vianello, per un saluto, ci aspettiamo un tuo tormentone prossimamente, un momento così inaspettato per una prossima estate? No, ne ho fatti già abbastanza. Va bene, soddisfatto così anche noi. Grazie Edoardo Vianello, a Giuseppe Gentile, a Enzo Gentile e Giuseppe Antonelli, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti e buona estate.